GR24, il sole 24 ore. Il PDL si sfila dalla fiducia al governo, il PD ora Monti va dal Colle, la Finocchiaro, il paese paga la crisi di un partito. E lo spread vola, si torna a sfiorare quota 330, male la borsa, paura sui mercati per l'incertezza, in piazza precari e studenti. Carri armati al Cairo, circondato il palazzo di Morsi. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. All'edizione delle 12 vi stavamo raccontando del voto al Senato sul decreto sviluppo. Ebbene, il voto si è concluso con 167 votanti, numeri che ne consentono l'approvazione con 127 sì, ma gran parte dei senatori del PDL ha deciso di non votare. Un dato che politicamente significa che la maggioranza non c'è più e Monti deve salire al Quirinale, ha detto senza mezzi termini la Presidente dei senatori del Partito Democratico, Anna Finocchiaro. E allora andiamo subito a Palazzo Madama a sentire che succede, che è successo questa mattina, dove c'è Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno Anna. È chiaro che si apre la crisi di governo perché, come hai detto tu da studio, il governo non ha più la maggioranza parlamentare assoluta. Che cosa è successo? Il PDL questa mattina ha deciso di non partecipare al Senato alla votazione sulla fiducia posta dal governo sul disegno di legge sviluppo. Il provvedimento è passato comunque l'esame dell'Aula, ma senza la maggioranza assoluta. 127 sì, 17 no, 23 astenuti per una maggioranza richiesta di 84 senatori. Il disegno di legge passa ora alla Camera, ma di fatto si apre la crisi. Il Premier Mario Monti salirà probabilmente nelle prossime ore al Quirinale, ma sentiamo proprio che cosa ha detto il Presidente dei senatori PD, Anna Finocchiaro. Come avviene nella prassi più consolidata, quando un momento di crisi e di difficoltà nello scenario politico si manifesta con tanta evidenza e con tanta acutezza, peraltro la stessa dichiarazione di dissociazione della maggioranza che è stata fatta qui dal Presidente Gasparri è stata annunciata anche alla Camera. Io credo che solo nelle mani del Presidente della Repubblica possa essere messa la questione, che il Presidente Monti debba in questo senso consigliarsi con chi è stato in questi anni il primo garante non soltanto delle istituzioni italiane, ma anche della stabilità delle sue istituzioni e anche dell'affidabilità e della credibilità dei suoi governi. Ecco, l'annuncio, come avete sentito anche da Finocchiaro, era stato dato già dal Presidente dei senatori PDL Maurizio Gasparri, proprio perché aveva detto che il gruppo non avrebbe partecipato al voto. Che cosa è successo? Probabilmente ci sono dei malumori dovuti anche alle frasi negative del ministro Corrado Passera sul ritorno di Silvio Berlusconi in politica. Ma sentiamo Maurizio Gasparri. Noi la responsabilità verso l'Italia l'abbiamo sempre dimostrata, anche quando è nato questo governo, e lo faremo anche su altri passaggi importanti della vita della Repubblica. Quello che faremo lo annunceremo come sempre alla luce del sole, assumendoci le nostre responsabilità, essendo generosi verso l'Italia come sempre, ma anche difendendo gli interessi fondamentali dell'Italia e degli italiani. Ecco Elisabetta, tu parlavi proprio delle parole del ministro Corrado Passera, che peraltro ha portato in Senato il decreto sviluppo. Questa mattina Passera aveva commentato l'annuncio di Berlusconi di voler tornare in campo, e allora sentiamo anche Passera. Dal punto di vista Italia, noi come Italia dobbiamo, secondo me, dare la sensazione che l'Italia va avanti. Tutto ciò che può fare soltanto immaginare al resto del mondo, ai nostri partner, che si torna indietro, non è bene per l'Italia. Ecco Elisabetta, ora lì in Senato che succede? Allora, qui in Senato tutto quanto, no, è una sorta di calma dopo la tempesta. Per esempio si parla del disegno di legge per la riforma elettorale, rimandato ancora una volta la prossima settimana a martedì, ma nessuno oramai ci crede più. Il problema è che il PDL, lo sappiamo, fa pressing per l'Election Day, e quindi in modo da accorpare le elezioni anticipate con il voto nel Lazio. Quindi bisogna vedere che cosa succede. E quindi si parla di febbraio. Si parla di febbraio, probabilmente era già nell'aria che avrebbero staccato la spina prima, però non si pensava in modo così, si pensava che avrebbero fatto passare il disegno di legge sviluppo e poi magari la legge elettorale probabilmente non si sarebbe fatta. Questo era quello che si diceva nei palazzi in questi giorni scorsi, invece c'è stata un'accelerazione da parte del PDL. Un'accelerazione dovuta forse alla sentenza anche del TAR del Lazio, che ha confermato il voto per il 10 febbraio nel Lazio. Quindi grazie. Grazie allora intanto ad Elisabetta Fiorito. Decisione sentivamo che ha colto questa mattina davvero di sorpresa, come ha colto di sorpresa molti anche all'interno del PDL la decisione di Berlusconi di rientrare in campo. Tra questi c'è anche Crosetto, che questa mattina ospita la 7 a Omnibus, ha lasciato gli studi TV con queste parole. Io non me la sento mica di continuare la trasmissione, me ne vado proprio perché non... Come diceva Facci, ho l'abitudine di dire tutto quello che penso, di dirlo anche magari in modo spiacevole. Ripeto, io mi sono stufato, mi sono rotto, però voglio che questa cosa, che è molto personale, diventi anche un dato politico. È una giornata di scelte importanti che non si fanno al mattino alle 8:30 dopo quello che è successo ieri, che secondo me ha una rilevanza fondamentale. Rilevanza fondamentale, della quale torneremo a parlare, già vi anticipo, anche a Italia in Controluce alle 13:30 per seguire quello che sta accadendo. Intanto però a reagire già il mercato, con lo spread che nell'incertezza, pochi giorni dopo essere sceso sotto quota 300, è tornato a schizzare questa mattina, è arrivato anche a sfiorare i 330 punti. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. La tregua sui mercati è durata poco. Effettivamente, come dicevate, i giochetti politici non piacciono al mercato. E lo spread, il termometro della tensione sui mercati obbligazionari, così intimamente legato alla politica, oggi torna a segnare profondo rosso, risale ed è arrivato, come dicevate, fino a 330 punti base. Ricordiamo che appena due giorni fa era sceso fino a 292. Peggiora anche la borsa, per la verità. Milano adesso è negativa, l'unica piazza con il segno meno in tutta Europa, segna meno 0,9%, mentre rimangono ancora positive le contrattazioni a Francoforte, il listino tedesco in rialzo di un punto, Londra segna più 0,26 e Parigi più 0,26, Londra in rialzo dello 0,07%. Peraltro a Piazza Affari, oltre alle incertezze politiche che stanno appesantendo tutti quanti i titoli appartenenti ad ogni settore, ma soprattutto al comparto bancario che risente della nuova fiammata dello spread, tiene banco anche il caso Saipem, tanto per gettare benzina sul fuoco. E come abbiamo più volte ricordato nel corso della mattinata, adesso il titolo perde il 7,5%, è arrivato in avvio a perderne 14 di punti. C'è una inchiesta appunto che è stata avviata dalla Procura di Milano su alcuni contratti stipulati in Algeria e presunti reati di corruzione per episodi che risalgono ad un periodo antecedente al 2009, circostanza che ieri sera ha portato alle dimissioni del CEO del gruppo Pietro Franco Tali e alla sospensione cautelare di un altro dirigente, Pietro Barone. Si è dimesso anche il direttore finanziario di Eni, Alessandro Bernini, che all'epoca dei fatti svolgeva lo stesso ruolo in Saipem. Quindi una serie di circostanze che questa mattina fanno ritornare una grossa incertezza sia in borsa che sul mercato obbligazionario. Per ora è tutto. Grazie anche Deborah Rosciani. Dunque, mercati che risentono della situazione politica, resta anche appunto il dato politico di quello che sta avvenendo. Il punto di Stefano Folli. Siamo all'epilogo della legislatura e di una stagione politica tormentata. Un epilogo che non potrebbe essere peggiore. La ritorsione del PDL nei confronti del ministro Passera, reo di aver criticato il ritorno in campo di Berlusconi, non solo fa molto male al Paese perché investe il decreto sviluppo, che infatti ha ottenuto una risicata fiducia, ma crea nuove gravi tensioni sui mercati. C'è ancora la legge di stabilità da approvare, non dimentichiamolo. La cosa migliore è che si faccia il più presto possibile e poi si torni a votare. Il Presidente del Consiglio non ha più una maggioranza, nemmeno strana. La riforma elettorale non si farà mai, la destra è in preda alle convulsioni e quanti in quel partito non vogliono farsi trascinare da questa pericolosa deriva dovranno pur dire una parola. Si guarda al Quirinale e alla saggezza di Napolitano per chiudere il sipario in un modo decente. E intanto, aspettando appunto il Quirinale, a Palazzo Chigi è riunito il Consiglio dei Ministri, perché questa mattina era prevista una riunione. Allora sentiamo anche cosa sta succedendo lì, al di là dei temi che avrebbero dovuto essere affrontati oggi. Alessandra Schepisi, qual è il clima? Sì, buongiorno Anna. Intanto c'è da dire che questo Consiglio dei Ministri è iniziato con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia e questa mattina, infatti, come sappiamo, Monti si è dovuto precipitare al Senato per votare sì alla fiducia sul decreto sviluppo dopo la decisione del PDL di non prendere parte al voto. Il Presidente del Consiglio, che è anche senatore a vita, ha partecipato alla seconda chiama dopo essere risultato assente alla prima. Poi a mezzogiorno è rientrato a Palazzo Chigi, dove è potuta finalmente cominciare la riunione. Per ora ovviamente si segue anche la tabella di marcia. Su tavolo però ci sono temi di certo non facili, c'è quello della data delle elezioni regionali e politiche, così come ha anticipato ieri il ministro Cancellieri. Il PDL, come sappiamo, chiede l'election day minacciando la crisi del governo, ma una minaccia che ora ha assunto contorni reali. E poi il decreto delegato sull'incandidabilità dei condannati, le cosiddette liste pulite, un tema che mette in fibrillazione il PDL, che presta per ammorbidire la scure dell'incandidabilità, incandidabilità che potrebbe anche riguardare Berlusconi se ci fosse una conferma definitiva della sua condanna nell'ambito del processo Mediaset e se rimanesse l'attuale formulazione del decreto. Dunque sarà probabilmente un lungo e faticoso Consiglio dei Ministri. Da Roma è tutto. Grazie anche ad Alessandra Schepisi. Dunque, spread è tornato a salire, prossime settimane che ci attendono alquanto complicate, anche le prossime ore. E intanto ci sono però anche i dati rilevati dall'Istituto di Previdenza, dall'INPS a fine novembre, che offrono un quadro allarmante. L'aumento dei sussidi per cassa integrazione è salito del 5% rispetto al mese di ottobre, ha portato il numero delle ore a livelli record. E la pressione fiscale è praticamente raddoppiata nel 2012 rispetto al 2011, dice anche la Confcommercio nel rapporto sui consumi di Natale, che caleranno sensibilmente. Così al microfono di Katia Caramelli, il direttore ufficio studi Confcommercio, Mariano Bella. Sotto il profilo fiscale dicembre è un appuntamento importante. Quest'anno con l'IMU ci sarà un incremento delle tasse di quasi il 100% rispetto a dicembre 2011 e quindi questo poi avrà dei riflessi senz'altro in termini di tredicesima disponibile per consumi. Noi stimiamo che a famiglia a prezzi costanti ci sarà una riduzione delle spese da tredicesima di circa il 13%. È inevitabile quando appunto l'IMU più che raddoppia. Per quanto riguarda i regali di Natale, cosa succederà? C'è una situazione di polarizzazione delle preferenze, degli orientamenti, cioè un po' meno tecnologia, anche se va bene, e un forte consolidamento della tradizione, quindi tutta l'area dell'alimentare, l'area dei giocattoli. Abbiamo qualche invece difficoltà, secondo questa ricerca, sugli acquisti di abbigliamento e calzature. Sulla sola spesa per i regali, le nostre stime dicono che si passerà dai 250 euro, ecco, di 2 anni fa, del 2010, ai 160 euro ben rotti del 2012, quindi una riduzione forte. D'altra parte è impossibile immaginare un Natale diverso dal trend dei consumi, che sono fortemente decrescenti a causa delle restrizioni sul reddito disponibile. E a Roma la protesta dei precari, un corteo ha bloccato le entrate della Rinascente con una sorta di picchetto. È la nostra risposta a questo Natale di austerity in solidarietà con disoccupati e precari, urlano i manifestanti. Il traffico attorno a Piazza Fiume, a ridosso del centro di Roma, è impazzito. Dallo stesso corteo, cui partecipano anche studenti, sono partiti anche lanci di uova verso vetrine di banche. In piazza ci sono anche i metalmeccanici della Fiom, che hanno manifestato in tutta Italia per dire no all'accordo siglato ieri da Federmeccanica con Fime Wilm per il rinnovo del contratto di categoria. In diverse manifestazioni ai cortei anche qui si sono uniti gli studenti, e così il segretario della Fiom Landini. Questo è un accordo che serve solo alle aziende, perché abbassa i salari, aumenta gli orari e cancella il diritto a contrattare nella fabbrica. Non è quello che serve ai lavoratori e al paese, e la prova è che non vogliono sottoporre al voto e al giudizio dei lavoratori quello che hanno fatto. Se la produttività e la competitività è cancellare i diritti di chi lavora, abbiamo già l'esempio della Fiat. Ora andiamo invece in Egitto, dove è alta la tensione al Cairo. Ieri 7 persone sono morte negli scontri davanti al palazzo presidenziale. Piazza Tahrir, il palazzo presidenziale al Cairo, è circondato questa volta non solo dai manifestanti pro e contro il presidente egiziano Morsi, ma anche dall'esercito. 6 carri armati e 2 veicoli blindati della Guardia Repubblicana sono stati posizionati fuori dall'edificio dopo gli scontri che ancora continuano tra sostenitori e opposizioni del capo dello Stato. Ieri sono morte 7 persone, quasi 450 i feriti. L'opposizione ha annunciato nuove manifestazioni per oggi per chiedere la cancellazione della bozza di Costituzione redatta dall'Assemblea a maggioranza islamica e per abrogare i decreti con cui Morsi si è assegnato poteri quasi assoluti. Migliaia di suoi sostenitori restano fuori dal palazzo del Presidente dopo aver cacciato dall'area gli oppositori che vi avevano inscenato un sit-in. Il Presidente della televisione di Stato egiziana intanto, Esam Al-Amir, ha presentato le sue dimissioni al Ministro dell'Informazione per protestare contro la gestione del Paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia, controlli e perquisizioni a Scampia sulle tracce dei sicari che ieri mattina hanno ucciso nel cortile della scuola materna un pregiudicato. Dalle prime ore del mattino, carabinieri, polizia, guardia di finanza in un'operazione coordinata stanno setacciando una vasta porzione di territorio del quartiere appunto di Scampia ma anche di Secondigliano e vicini comuni di Casoria e Melito. A Milano c'è attesa, dovrebbe arrivare a breve la sentenza per le infiltrazioni dell'Andrangheta al nord. Andiamo a Palazzo di Giustizia, Raffaella Calandra. Sì Anna, in realtà io sono nell'aula bunker dove siamo in attesa, come dicevi, della sentenza per il maxi processo all'Andrangheta al nord. Gli imputati sono già nelle gabbie e a minuti il presidente dell'ottava sezione penale pronuncerà il verdetto per i 44 imputati dei 300 e oltre arrestati tra Lombardia e Calabria nel luglio di 2 anni fa nell'operazione Infinito Crimine. 450 anni in totale ha chiesto la procura per molti uomini accusati di essere la zona grigia di contatto tra la parte militare dell'Andrangheta e la sfera politica. Tra gli imputati ci sono l'ex direttore dell'ASL di Pavia, Carlo Chiriaco, l'imprenditore Pergo e ancora c'è da staremo a vedere quali saranno il verdetto della corte, ma tra gli imputati c'è anche il figlio di quella novella che fu ucciso in Lombardia e perché secondo quanto l'inchiesta Infinito ha ricostruito era l'uomo che stava prendendo troppa autonomia rispetto alla casa madre calabrese. A minuti è attesa la sentenza, vi terremo ovviamente aggiornati. Anna. Grazie, torneremo da te appena ci sarà la sentenza. Nel frattempo c'è un'altra inchiesta per associazione a delinquere per evasione fiscale. Nei guai è finito l'ex presidente del Napoli, Ferlaino. Un'inchiesta della Procura di Napoli punta a una presunta evasione fiscale a 6-0 messa in piedi dall'impero economico immobiliare dell'ingegnere ed ex premiato patron del Napoli Corrado Ferlaino e della ex moglie Patrizia Boldoni. In gergo giuridico si chiama esterovestizione. Perquisizioni sono in corso da stamani da parte della Guardia di Finanza presso società ed uffici a Napoli e in provincia riconducibili a Ferlaino e alla Boldoni. Stando ad indiscrezioni, l'indagine condotta dai PM Vincenzo Piscitelli e Fabio Massimo Di Mauro parte da un dato: alcune delle proprietà notoriamente riconducibili a Ferlaino appartenevano formalmente ad alcune società con sedi estere. L'inchiesta prende anche spunto da una circostanziata denuncia risalente a un paio di anni fa presentata da una nota avvocatessa svizzera Xenia Peran, secondo la quale c'erano state anomalie nell'assetto societario dell'ex patron del club azzurro. Tra gli indagati, oltre all'ingegnere e alla ex signora Ferlaino, vi sarebbero altre 5 persone. Le ipotesi di reato: associazione per delinquere ed evasione fiscale. Secondo gli accertamenti condotti dal nucleo di polizia valutaria, con il sostegno dell'Agenzia delle Entrate, quote di varie società sarebbero state trasferite all'estero attraverso vari passaggi. In Svizzera, Lussemburgo, Inghilterra e America Latina sarebbero riconducibili a un trust, una complessa struttura societaria, un'architettura creata ad hoc per evadere il fisco. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E il calcio cosa ci riserva? Buongiorno come sempre Carlo Genta. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque portiamo le nostre due squadre alle soglie della primavera della Champions League, oltre la fase a gironi. Del Milan si sapeva già. Ieri sera la Juventus ci è arrivata non con un pareggino e con il secondo posto, ma sul cavallo bianco di una grande impresa, cioè di una vittoria a Donetsk 1-0 firmata da un'autorete propiziata da Giovinco, dunque vincendo il suo girone proprio davanti allo Shakhtar. Passano anche Bayern Monaco e Valencia, Barcellona e Celtic, Manchester United e Galatasaray. Questo il verdetto della notte di Champions League. Il 20 i sorteggi e conosceremo le avversarie delle nostre. C'è chi come Bonucci addirittura vorrebbe Real Madrid, per quanto riguarda la Juventus, chi con maggiore realismo, ad esempio Lichtsteiner, punta il dito sui Celtic. Ma tanto è tutto in mano al destino. Stasera tocca alle nostre di Europa League, ma lì i giochi sono praticamente fatti. E allora vedremo. Di nuovo allo studio. Grazie Carlo Genta. In arrivo c'è anche la cosiddetta tempesta dell'Immacolata. Tutto il fine settimana ci sarà un clima invernale, gelate notturne al nord, nevicate anche a bassa quota, prevedono gli esperti. Claudio Castellano, meteorologo previsore della Società Meteorologica Italiana. La fine settimana dell'Immacolata segnerà un po' il passaggio di un vortice di aria fredda di origine polare e quindi aumenterà decisamente il freddo un po' su tutta la penisola e sarà accentuato da forti venti tra nord e nord-est, soprattutto al centro-sud e sulle zone adriatiche. Ci sarà, soprattutto nella giornata di venerdì, un peggioramento a partire dal nord-ovest che porterà a nevicate sulle zone alpine del Piemonte e sulla Valle d'Aosta anche a bassa quota. Poi un po' di neve venerdì potrebbe raggiungere anche alcune zone di pianura, parliamo comunque sempre in termini di fiocchi di neve e quindi poca roba su Torino, un po' Milano, alcune città dell'Emilia, diciamo. Mentre invece le nevicate più consistenti interesserà la zona dell'Adriatico a partire da sabato, quindi dalla zona della Romagna, Marche, Abruzzo, e qui anche in pianura si potrebbero imbiancare le città della costiera adriatica. È tutto per questa edizione. Gianmarco Ferronato in regia, da Anna Migliorati. Ancora una buona giornata. Vi ricordo gli aggiornamenti di GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Aveva firmato anche l'auditorium di Ravello Oscar Niemeyer, uno dei più grandi architetti al mondo, morto ieri a Rio de Janeiro all'età di 104 anni. Conosciuto come il padre della nuova capitale del Brasile, Brasilia, inaugurata nel 1960, nel 96 aveva ricevuto il Leone d'Oro dalla Biennale di Venezia. Ultime ore di attesa per l'inaugurazione della stagione scaligera, come tradizione nel giorno di Sant'Ambrogio, domani. Oggi però di scala si parla per un fatto di cronaca. Due uomini di origine russa residenti a Milano sono stati arrestati perché via internet vendevano biglietti maggiorati anche del 700%. Un biglietto per la prima arrivava anche a 3.700 euro. Applausi intanto a Napoli per l'inaugurazione della stagione lirica del San Carlo con la Traviata firmata da Ferzan Özpetek. Apprezzato sul podio il pesarese Michele Mariotti, Oscar della Lirica 2012. Presenti cinque ministri del governo Monti: Profumo, Ornaghi, Giarda, Severino e Patroni Griffi. Fuori le proteste degli operatori culturali del sito archeologico di Pompei e degli studenti dei collettivi. Parliamo di tutt'altra musica invece con la finale in due parti, oggi e domani, di X Factor 6. Quattro i cantanti rimasti in gara nel talent di Sky. Secondo le quote SNAI la vittoria è sempre saldamente in mano a Chiara, data 1,20. X è quotato a 10, 12 per Cixi e Davide. Si è completato con i due vincitori del concorso di area Sanremo il cast dei giovani del festival. I due sono Renzo Rubino di Taranto e Irene Ghiotto di Vicenza. Tira fuori le spine, tira fuori l'orgoglio di quei desideri rimandati a domani. Sul palco dell'Ariston ci saranno anche i Blastema, scoperta di Dori Ghezzi e Luvi De André. Matteo Casadei. Non ci aspettavamo di essere tra i selezionati perché eravamo 240 in partenza e siccome noi non facciamo, diciamo così, una musica molto compatibile solitamente al festival, ci aspettavamo di essere poi cassati fuori. E adesso, diciamo che dopo l'esaltazione, sta un po' arrivando la preoccupazione di questa onere importante, perché vorremmo ben figurare su quel palco, soprattutto perché ci troviamo finalmente, dopo tanti anni che lo aspettiamo, a poter suonare con una grande orchestra, per cui vorremmo che fosse un momento, diciamo così, molto evocativo. Piero Angela spiega la crisi. Lo fa con il suo linguaggio inconfondibile nello speciale di Super Quark, in onda domani sera in prima serata su Rai 1, dal titolo Uscire dal tunnel. E credo che quello che tutti noi ci chiediamo, quando e come possiamo uscirne. Io in realtà avevo fatto molti programmi in passato di economia e questa volta cercherò di farlo in modo estremamente divulgativo, perché ci sono tante persone che ci hanno scritto dicendo: perché non ci spiegate un po' quello che sta succedendo e come possiamo venirne fuori. Pensi che il primo mio interlocutore, che ricorrerà sovente nel corso del programma, è un bambino di 11 mesi, al quale io cercherò di spiegare che cos'è il debito pubblico e lo spread. E poi ci sarà anche una mucca che rappresenta la ricchezza che un paese produce e che poi la politica distribuisce. E per la seconda edizione del GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.